Complimenti per la scelta, siete sintonizzati su Rock FM e anche quest'oggi, come ogni stramaledettissima mattina, è decollata l'astronave denominata Pane e Burro e Rock and Roll. Quanto mi è mancata la base di 2001 di Stare nello Spazio. Ho fatto un'estate tristissima senza questo Spadino, veramente. E al grido di mio Dio è pieno di stelle, anche quest'oggi direzioniamo la prua o la poppa di quella che sta davanti verso le 9 del mattino, accogliendo tutti gli avventori a braccia aperte. Siete i benvenuti, amici ed amiche. Con noi Roberto Fricantoni, Spadino in regia, l'Ariele, la Mucca Camilla, Mister Trombetta, ma soprattutto tutti voi. 335-100-7777 oppure ariel@radiorockfm.com. Ma chi vi sveglia come noi? Chi? Sentite qua. Supertramp, Goodbye Stranger. It was an early morning yesterday. It's gone, gone. I was up before the dawn. Spegnimi il microfono, Spadino. And I really have enjoyed my stay. Down. But I must be moving on. Chitarrone! 3-4! Like a king without a castle. Stram! Stradadram! Stradadram! Believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as a ship out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look. volte, grazie alla passione che contraddistingue il maestro Roberto Fircantoni per le invenzioni minori, che qui a Pane, Burro e Rock and Roll si approfondisca qualcuna di queste piccole grandi scoperte. Oggi, come annunciato, in questo 10 di settembre non potevamo chiudere gli occhi di fronte a una invenzione che definirei epocale. È dir poco, dico bene? Dice assolutamente, perfettamente bene. Pane, Burro e Rock and Roll dalla parte delle invenzioni cosiddette minori, ma essenziali. Lui si chiamava Elias Ou e nel 1846, proprio il 10 di settembre, andava a brevettare la macchina da cucito. Infatti, dobbiamo sapere che questo... Lei mi chiederà, per esempio, chi era Elias Ou? Chi era Elias Ou? Ecco, era un modesto meccanico americano che depositò il principio della prima macchina per cucire. Bravo Elias! Ma non fu il primissimo ad aver inventato... Le magagnette delle invenzioni minori. Infatti, perché sono in realtà elaborazioni successive di brevetti forse già esposti, già depositati. In questo caso Elias Ou non fu il primo ad aver inventato l'apparecchio, il cui prototipo si deve ad un sarto francese dal cognome difficilissimo, lo dica, Timonier. Oh. Timonier. Ecco, che operò tra la fine del 1700 e la prima metà dell'Ottocento e che nel 1830, quindi un po' prima di Elias Ou, realizzò una macchina che, sia pure in maniera rudimentale, riusciva già a suo tempo a mettere una fila di punti su di un tessuto. Però Elias Ou capì, ed è qui il punto della situazione. Ed è qui il colpo di genio. Capì un principio molto semplice, che la cruna del lago meccanico andava collocata vicino alla punta e non all'estremità opposta come negli aghi per cucire a mano, manuali. Ed è stato lì il lampo di genio. Certo, che hanno la cruna naturalmente in alto. Quella cruna, quella dove non passa il cammello. Esatto, per la quale biblicamente non passa neppure un cammello. Ecco, la macchina da cucire però verrà ulteriormente perfezionata. No, quindi non è Elias il vero capo di tutto. Diciamo che ci fu un altro inventore. Sento che andrò puzza oltre. Sento puzza di bruciato, Frick. Chi è questo cialtrone? ci fu un altro che andò oltre, andò avanti, Mr. Singer. Ai, mi puzza questo. Abbiamo la macchina da cucito in formula definitiva depositata dall'inventor Singer. Ma si sappia, qui a Pane, Burro e Rock and Roll, quando ci capita davanti una macchina da cucito, non pensiamo a Singer, che si è fatto pure il grano, ma al grandissimo Elias Ou. Singer ha raccolto quello che già altri avevano seminato. Ti abbiamo tanato, maledetto. Just have fun. Ladies and gentlemen, i Seeds di Pushing So Hard, e sfumano un po' così, un po' alla vecchia sfumano. Ogni giorno sempre di più all'ascolto del mattino di Pane, Burro e Rock and Roll, testimonianza concreta lo sono state le centinaia di cartoline postali che ci sono arrivate nel corso di questa estate, cartoline che in realtà continuano ad arrivare creando non poche preoccupazioni a noi della redazione di Pane, Burro e Rock and Roll, che non sappiamo dove metterle. Si pensava di fare un paio di pareti, robe di questo tipo, appena le faremo magari, anzi cercherò il prima possibile anche di scattare qualche fotografia per ringraziarvi almeno immaginificamente e pubblicare la fotografia da qualche parte. Ricordo che vi saluteremo tutti quanti, tenteremo di leggere tutte le cartoline arrivate. A questo proposito, nel corso del weekend ho avuto modo venerdì di lavorare dagli amici toscani a Firenze, sabato a Milano, in tanti siete venuti a salutarmi, tante facce nuove, e la cosa fa molto piacere, soprattutto quando ti dicono «Ehi, ciao Max De Rio!» No, io sono Ariel, De Rio è il cappellone, ma è carina come cosa. Non ricordo male, Sheila, proprio venerdì sera, mi ha confessato, guarda, era tantissimo che non scrivevo una cartolina, e mi ha confessato una cosa molto bella, nel senso che mi ha detto: non solo l'ho mandata a voi, l'ho anche mandata a tanti miei amici, perché proprio ha capito il senso della nostra campagna a favore della cartolina postale. Grazie cara, e un saluto anche a tutti gli altri che sono passati a salutarmi venerdì. Ricordo con orgoglio un ragazzo, anche abbastanza giovane, che ha sentenziato: caro Ariele, Pane, Burro e Rock and Roll mi ha cambiato la vita. Adesso vediamo di non esagerare, però, insomma. Arrivano saluti anche al nostro freak da parte di gente che lo ha visto in televisione per l'appuntamento del V-Day bolognese, dove avevamo annunciato che avrebbe suonato con i suoi Schiantos. Il saluto gli arriva da Pippero. Ah, essendo lunedì, quest'oggi ragazzi dobbiamo sdoganare un nuovo brano per tenerci compagnia tutta la settimana. Eh sì, bisogna inventarsi qualcosa, Spadino. Mi sa che prendo la situazione io. Ah sì, oggi alzo la cresta. Sì. Uè, 7:46 minuti primi, almeno per noi della diretta sulle onde di Rock FM. Per voi che ascoltate in fuori onda, in fuori diretta da RadioRockFM.com, buona giornata anche a voi. Per tutti quanti, Dude Looks Like a Lady, Aerosmith, la grande mattina di Rock FM. Qualcuno ha bisogno di una strombazzata? Basta chiedere, ragazzi, basta chiedere. Yeah. buon Battisti avrebbe cantato sì, viaggiare evitando le curve più dure. E anche noi di Pane e Burro. Le è piaciuta la sì, sigla? Sì, bella, bella sigla, una sigla originale, mi piace. Forse più bella della sua sulle cartoline, ma non vorrei offenderla. E a proposito di cartoline, no, me lo lasci riconoscere, la sua era più bella. Andiamo a occuparci di nuovo e continueremo a farlo fino alla logorrea che da sempre ci ha contraddistinto, a salutarvi cari amici e cari amiche. Quest'oggi viaggiamo nel bel mare italiano. Perché andare alle Seychelles? Perché andare alla Galapagos quando si può andare a Chiavari? Oh, ce lo ricorda Joe da Cusano Milanino, che giustamente ci manda una bellissima cartolina del reparto per descrivere il fronte. Paesaggio panoramico e scritta gigante, che in realtà nel panorama non può esistere, perché c'è scritto Chiavari e gigante sotto magari, dopo Chiavari magari, ed è tutto profilata, la scritta Chiavari è profilata. È molto bella questa cartolina, Chiavari in un tramonto veramente romantico, anche un po' sforzato, anche un po' effettato con qualche ne approfitto per salutare anche il nostro collega Edo, che arriva proprio da Chiavari città, quindi salutiamo gli amici di Chiavari, compaesani del nostro Edo. Joe scrive: salviamo la cartolina, cari Ariele e Frick. Tra l'altro, altra cosa da segnalare è il modo in cui hanno scritto Frick in queste migliaia di cartoline. Ognuno lo scrive un po' alla sua. Beh, giusto. Joe lo scrive Frick. Con Frick. F-R-I-C. All'italiana. Che mi sembra giusto. Che non è male. Va bene. A Chiavari si fa tutt'altro che puntini, puntini, puntini. Possiamo immaginare, vero? Se c'è una cosa più noiosa di questa cartolina è proprio la cittadina. Noi ci dissociamo da questa scritta. Non possiamo... Fare... Domanda. La faccio a lei, Frick. Fare il pescatore nel Tiguglio è rock? È molto rock, assolutamente rock. Però Joe chiude dicendo: comunque io faccio il direttore d'azienda. E non si chiede se è rock o no, ma per noi lo è, perché ci ha mandato una cartolina. E trasferiamoci dal panorama di Chiavari fino a Garniga Terme, a 820 metri sul mare, dove scopriamo che c'è una chiesa, che ci sono i fiori, c'è un campo da calcio. Guardi che mettere il calpetto da calcio sulla cartolina, un filo ce ne vuole, un lago probabilmente e una veduta dall'alto. Poi questa è una cartolina che arriva da Verona, Garniga Terme. Quindi è Garniga Terme, quindi è probabilmente in provincia di Verona. Questo da timbro, sì. Salutiamo timbro. Alessandro Longoni, saluti e baci, il vero rocker è colui che non ha paura di infrangere le regole, infatti scrive dove non dovrebbe scrivere. Saluti e baci, bravo. Complimenti, Alessandro. Complimenti Alessandro, hai fatto bene a scrivere sotto la riga, sotto la linea, come fa sempre Homer Simpson, non scrivete al di sotto di questa linea. E lui scrive: va bene. Allora, le propongo un'ultima tappa di questo viaggio in Italia sul Sono mare. Sono curioso, da dove arriva Andrei questa? Nel... il timbro è Bologna, ma in realtà la cartolina arriva dal meraviglioso Hotel Villaggio 3 Stelle, Gabbiano Beach, Vieste, Gargano, Italy. Quindi dal Gargano. Presumo in Puglia, dove si vede Gargano. Il Gabbiano Beach, il villaggio, questo è il Gabbiano Beach, questa è la spiaggia, ci siamo, e questo è il mare. Ecco, ma qui in mezzo non riesco a Questa è una veduta dell'interno del Gabbiano Beach, ah, è un porticato del Gabbiano esotico, Beach, tre stelle, tra l'altro molto segnalo. Esotico. Ringraziamo anche gli amici del Gargano che ci inviteranno per la prossima estate. Posso segnalarle questo vai da? Vai, sì. In prima persona, come indicare alla cartolina vai da Rock FM, via Locatelli 1. Tanti saluti, scrive: perché non muoia la cartolina postale, grazie, ho 51 anni, mio figlio ne ha 16 e ascolta musica alternativa in alternativa alle canne. Bravo, stagli dietro. Va bene. Mantienicelo così. Ci piace. Viva il chignotto, la miglior bibita, baci da Angelo e Stefania. Gabbiano Beach, Hotel Village, arriveremo prima Grazie, o poi. Grazie, siamo Gargano. Commossi. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that cares about. Little boy, if I talk too much, I've seen it all go down. The game of love was all rained out. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. Anche voi nel traffico, su, via di Falsetto, primo mattino. Pronti? Che lo fa? To be with you. Just to be the next to be with you. Oh yeah. 7:59 minuti primi. Mr. Big, è imprescindibile andare di Falsetto a quest'ora del mattino, eh? Ti fa venire quel filo di mal di testa per affrontare meglio la giornata. È il consiglio che vi dà l'Ariele. Pochi secondi, ci prendiamo una brevissima pausa. Tra poco svegliamo la seconda tranche di Radio Ascoltatori. Settimana scorsa, per tutte e cinque le prime puntate, vi abbiamo svegliato con Here Comes the Sun, un brano solare, un brano meraviglioso per cominciare la giornata, targato Beatles. Questa settimana siamo psichedelici, altro che allegri. E questa settimana, per par condicio, andiamo di Rolling Stone, a tra pochissimo. Ci sono dei posti dove ti senti subito a casa. Rock FM. Dei posti dove tutti i piaceri della vita hanno un sapore unico. Pane, burro e rock and roll. Rock FM. Per darti un po' di festa, tutti i giorni.